140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Per tutto il mese di agosto riascoltiamo gli incontri di 140 caratteri. Quelli che per tutto l'anno abbiamo raccontato in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Torniamo al Taormina Film Fest nella nostra puntata di oggi. Palazzo dei Congressi, Taormina. Novità della prossima stagione, Stai lontana da me, remake del francese Per sfortuna che ci sei. Alessio Maria Federici dirige Enrico Brignano. In Italia parlare di sfortuna o di sfiga o di come vogliamo chiamarla è sicuramente complesso. A noi divertiva indubbiamente la modalità di raccontare come le difficoltà umane e personali poi si tramutino in dare la colpa a qualcos'altro, a una causa di forza maggiore, che sia la sfortuna o che sia il maltempo o che sia qualcos'altro, e quindi ci siamo lanciati a capofitto in questa sfida e grazie al cielo senza nessun timore da parte degli attori. Enrico, infatti una comicità diversa quella francese, come è andata? Come è andata veramente lo si potrà dire dopo, almeno le prime due settimane in cui verrà messo su al cinema, insomma andrà sui grandi schermi. Per adesso è andata bene, ci abbiamo lavorato credo 6 o 7 settimane alla mia partner Ambra Angiolini, perché si parla di una coppia, insomma si parla di una coppia in amore, e quindi hanno trovato a me una degna compagna di lavoro, divertente. Ho conosciuto un'Ambra molto simpatica, che sa prendersi in giro e che ha fatto poi, tra le altre cose, delle scene molto divertenti, perché c'è una scena in cui lei deve colpire un vetro e ci stavamo domandando come poteva farlo, se dovevamo mettere una stante e prendere quel momento da dietro e invece no, è stata bravissima, non ha avuto bisogno di stunt girl, insomma. E per quanto riguarda poi tutto il resto, il fatto che sia un film francese, insomma, mi fa un po' pensare, dico, come mai non ci siamo arrivati noi prima? Che cosa ci manca a noi italiani? A noi italiani ci manca il fatto di essere italiani, cioè noi vorremmo essere sempre qualcos'altro, vorremmo abitare altrove, quando invece potenzialmente credo che nel mondo uno dei posti più belli del mondo sia proprio l'Italia. Gran parte delle nostre cose sono riconosciute come patrimonio dell'UNESCO, e allora dico, ma perché non famo tutta l'Italia patrimonio dell'UNESCO e se ne parla più? E quindi noi del cinema forse dovremmo essere considerati patrimonio dell'UNESCO, forse. Allora mi chiedo, perché una storia francese poi? E non è la prima. Non è la prima. Io credo che fra un po' arriverà qualcuno che farà Quasi amici, sicuro. Perché benvenuti al sud e benvenuti al nord. E quindi, insomma, comunque l'abbiamo fatto, l'abbiamo portato a casa. Adesso il prodotto è finito. Aspettiamo che finisca l'estate, perché far uscire un film d'estate in Italia pare che non abbia senso, insomma, non lo so, però insomma a ottobre saremo pronti per far uscire questo film, che si chiamerà appunto Stai lontana da me, e quindi niente, anch'io sono curioso di sapere come andrà a finire, insomma, sono il primo, quindi teoricamente vorrei già sapere la fine, ecco, però invece no, è tutto da iniziare, insomma, iniziare la promozione, cercare di capire quali cose possono piacere al pubblico. Enrico, tu hai detto, spero che questo film aiuti a sopportare l'aumento dell'IVA facendo sognare. La grande tradizione della commedia all'italiana è stata quella di far sorridere e riflettere insieme in tempi difficili. Sì, questo credo che sia il compito che deve avere lo spettacolo in generale, cioè la cosiddetta evasione, non tanto evasione fiscale, ma purtroppo per gli italiani l'evasione dal fisco, cioè un fisco che è peggio di... Io non credo ci sia una cosa peggiore dell'Equitalia oggi, nemmeno una grave malattia, insomma. E tante volte qualcuno dice: mannaggia, oggi sono stato sfortunato, mi è arrivata una cartella esattoriale, perché non è dato da una cattiva gestione del denaro pubblico o comunque della visione della cosa pubblica. La cartella esattoriale è data dal fato, come, no? Il contrario della cartella esattoriale è vincere un terno all'otto. È uno strano paese questo, dove da una parte si combatte l'evasione e dall'altra parte si aumenta il fisco, e sono, no? È come curare il raffreddore mettendo i piedi nell'acqua gelata. C'è qualcosa che non va, e purtroppo allora l'eredità negativa che deve avere, il peso sulle spalle che deve avere la commedia, è non solo far sembrare questa vita magnifica, già per il fatto stesso di invecchiare, di ammalarci, ma soprattutto di sopportare il peso di uno Stato che è incapace di gestire i propri cittadini. Hotel Timeo, Taormina. A Taormina per lui un bagno di folla. Dopo il successo del Principe abusivo, il recordman Alessandro Siani. Io avevo lavorato sulla sceneggiatura di Benvenuti al Sud, così in maniera abbastanza in ombra. Poi Benvenuti al Nord è stato un film che è stata alla consacrazione, perché è stato un altro grande incasso. E quindi poi toccava a me. E ho accettato la sfida e sono contento che poi alla fine il film sia piaciuto. Sono molto contento, ringrazio proprio la gente. La frase più bella la frase più bella che ho sentito quando il film ha incassato tanto, a parte la soddisfazione che la gente era in un periodo che voleva sognare, è stata anche una lettera che mi è arrivata da parte degli esercenti, che dicevano che grazie al mio film potevano pagare lo stipendio ai loro dipendenti. Quindi questo ti fa capire l'importanza e la grandezza del cinema, che non solo ti fa sognare, ma comunque deve anche in alcuni casi risolvere i problemi della quotidianità di chi fa questo lavoro. Io vengo in un quartiere di Napoli che non è proprio facile, quindi capita sempre di incontrare e di vedere intorno a te cose che non ti piacciono. Di conviverci delle volte, solamente la coscienza che uno ha, che ti fa capire che le cose belle sono quelle più semplici. Si dice che il difficile è essere facili, ma la stessa cosa è questo, essere semplici è un'altra cosa che ti dà la possibilità di vedere, di toccare con mano l'umanità. I ragazzi qua a Taormina ti hanno assalito. Sì, sono molto contento. Come lo vivi questo amore da parte dei ragazzi, e invece i critici non ti hanno ancora apprezzato abbastanza? Beh, guarda, io ho avuto, diciamo, per adesso due nomination, sia in Benvenuti al Sud come attore, e Il Principe abusivo è stato un'altra nomination a Davide di Donatello, Nastri d'argento ebbi un premio speciale. Devo dirti che non è che sono proprio messo male. Però devo anche sottolineare il fatto che Benvenuti al Sud fu un film molto criticato. Io mi ricordo quando facemmo la prima, io e Bisio rimanemmo abbastanza, non sorpresi, ma stupiti, diciamo, dell'accanimento che c'era stato su questo film Benvenuti al Sud. Benvenuti al Nord è stato un altro film che è stato stroncato. Il Principe abusivo ha fatto la stessa fine di Benvenuti al Sud. Beh, stronca, per tornare a ripetere, avere una nomination da comico non è una cosa semplice, quindi non vorrei mettere in discussione il lavoro che fanno i critici. Per il momento sono molto contento. Come si dice, volare bassi per schivare sassi. Alessandro, tu ogni tanto vieni chiamato in televisione, e quando tu arrivi in televisione l'audience... Sì. Che ne sai tu? Lavori in TV? Studio i numeri, mi piacciono i numeri. Sì, avviene questo fatto clamoroso che semplicemente per me è una cosa eclatante. Il pubblico comunque ti segue se stai, se fai un'ospitata. Ci sono arrivate molte proposte per condurre programmi in TV, programmi anche importanti che non faccio il nome per una questione sempre di eleganza. Però sto aspettando il momento giusto. Intanto il cinema mi ha completamente preso, quindi sapere di fare una cosa che prima pagavo per farla, andavi al cinema, pagavi il biglietto e ti vedevi gli attori, oggi addirittura sto io dall'altro lato, è una cosa incredibile, un sogno. Il sogno è di tutti, questa è la bellezza del cinema. Io ricordo la prima volta che ti intervistai perché eri stato un fenomeno a livello locale che noi dal freddo nord non riuscivamo a capire. Quindi io telefonai a questo Alessandro Siani per capire che cosa era successo. Quante cose sono cambiate dall'epoca? Tu stai parlando dello Stadio San Paolo. Feci uno spettacolo allo Stadio San Paolo con 25.000 spettatori, fu una cosa straordinaria. Da allora è nato, che ti posso dire, no è nato, da allora c'è stato questo percorso che mi ha portato comunque a fare dei film che sono piaciuti al pubblico. E oggi quando faccio gli spettacoli a Milano e so che il teatro è pieno, oppure a Roma adesso sto al Foro Italico con uno spettacolo e so che è tutto esaurito, devo dirti che rimango sempre stupefatto dell'amore del pubblico. E i ragazzi che c'erano oggi a Taormina erano proprio la dimostrazione, quella bella semplicità che ti stracciano i vestiti, che ti trovi con pezzi di carne mancanti dal corpo, capito? Adesso, perché non so se dopo questo successo pazzesco del Principe Abusivo c'è un po' d'ansia da prestazione. Ma no, l'ansia da prestazione stava con il Principe Abusivo, è perché venivi da due film di grande successo e poi tenivi tu la... Adesso ci sta più una, che ti posso dire, un approccio diverso, sempre grande attenzione e concentrazione, ma un approccio diverso perché comunque adesso che ho fatto il primo film sembra che mi sono svezzato come regista e quindi mi sento un poco più tranquillo. Ai ragazzi oggi hai detto che i sogni sono importanti, ma Alessandro, il tuo sogno nel cassetto qual è? Il sogno nel cassetto è che ci possono essere tanti sogni nei cassetti di tutti gli italiani. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Torniamo a ripercorrere il Taormina Film Fest nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Hotel Timeo, Taormina. Ancora le novità della prossima stagione, a presentare Diario di un maniaco per bene, Giorgio Pasotti, nel giorno del suo 40° compleanno. Dunque, un maniaco per bene non è proprio semplicissimo esserlo, nel senso che il personaggio in questione si chiama Lupo ed è un artista, un pittore in piena crisi artistica, quindi non sa più che cosa dipingere. Nel frattempo convive con sue manie che vanno da quelle veramente del, non sono certo quelle dell'ordine, ma sono quelle legate più a uno stile di vita che è particolarissimo. Vive con conflitti interiori che sono appunto non solo quelli legati alla professione, ma quelli legati anche a un aspetto più umano, più anche sociale, e quindi convive con questi tic, manie, problemi di qualsiasi genere e sorta, e riesce poi ovviamente in una Roma deserta d'agosto, nel suo quartiere, incontrando personaggi assurdi, riesce a ritrovare alla fine insomma una vena artistica, quindi un'ispirazione. In una Roma bella e deserta ti abbiamo già visto nella Grande Bellezza di Sorrentino, però. Sì, assolutamente sì, sono due sorte di chiavi diverse, nell'una le possedevo, quindi sapevo dove andare. Il personaggio in questione del maniaco per bene non sa, non ha né le chiavi né sa bene dove andare, ma troverà l'uno e l'altro, proprio appunto sempre girovagando in una Roma meravigliosa di altra natura, quindi non quella diciamo artistica, culturale, ma più popolare, più semplice, che è quella appunto del quartiere dove lui vive, nel quartiere dei Prati. E il tuo personaggio è un quarantenne come te esattamente oggi? Ma sì, assolutamente sì, questo ho sperato e tentato di tenerlo nascosto, ma vedo che non sono proprio riuscito. Sì, è oggi il mio compleanno e insomma sono felicissimo di essere, come dire, di festeggiarla a Taormina, di festeggiarla in occasione di un film che al quale ho voluto molto bene, ho amato fare, perché sono quei piccoli film però veramente deliziosi che si portano dentro una poesia, una non volgarità che sono assolutamente delle virtù nel mondo cinematografico di oggi. Ed è un film che gli attori amano fare perché sembra avere una sorta di spartito più o meno scritto, ma al quale uno può, come dire, portare molto di sé, aggiungere note, colorarlo come più gli riesce, come più gli aggrada. C'è molta tecnologia in questo film, c'è Skype, c'è ritrovi una fidanzata via Twitter, insomma è un film che racconta un po' dei tempi di oggi. Sì, assolutamente, benché il personaggio sia assolutamente, come dire, poco moderno e quindi legato forse a un mondo, non un mondo in particolare, è legato a un mondo suo, quindi completamente distaccato, anche forse un po' surreale, ma il contatto che lui, per quanto lo possa negare, ha con la tecnologia è un, che poi tra l'altro gli viene tutta questa conoscenza gli viene data, gli viene portata dalla nipote più piccola, che è l'unico, come dire, l'unica sfera, l'unica femmina che può entrare in casa sua e può, come dire, avvicinare questo soggetto del tutto particolare. E il suo contatto con la realtà è a tratti completamente distaccato, a tratti collegato dalla tecnologia, quindi ne fa un uso e un abuso, perché non ne comprende, insomma, fino in fondo la funzionalità. Adesso non vorrei esagerare, però è un po' tipico dei quarantenni, sia questo problemi con i rapporti con le donne, sia affidarsi a protesi di questo tipo. Diciamo che la cosa non mi compete, quindi assolutamente posso negare assolutamente questa affermazione che tu... No, non saprei. Io personalmente non ho un grandissimo rapporto con la tecnologia, ne faccio un uso, come dire, moderato, ma non... Come dire, non è una forma di preconcetto, di pregiudizio nei confronti della tecnologia, che semplicemente mi annoia a morte. Preferisco farmi una passeggiata, leggermi un libro, andare al cinema, piuttosto che rimanere chiuso, collegato in questa piccola scatolina di dimensioni peraltro troppo contenute per la mia vista, per il mio cervello. Quindi ho bisogno di più spazi, spazi aperti, aria aperta. Quindi ho un rapporto, come dire, di uso tutto sommato, insomma, legato più che altro al mio lavoro. Il rapporto con le donne del personaggio del tuo film, sei accerchiato da una serie di figure femminili. Sì, assolutamente, fanno parte di tutte quelle micro grandi manie, che le ossessioni, se vogliamo, alle quali lui è attratto, portato, e nell'universo femminile fanno parte donne di come dire, di estrazioni, generi completamente diversi dalle straniere che lui trova attraenti in quanto, come dire, poco vestite, poco truccate, assolutamente nella loro semplicità, alle suore, piuttosto che trova, come dire, attraenti quelle cose che normalmente forse non sono le prime cose che un uomo noterebbe in una donna, però lui le trova assolutamente attraenti, si fa anzi, come dire, desideroso, ci prova anche con la suora a modo suo, trovando chiaramente un muro, una barriera, anzi essendo anche un po', come dire, frainteso nel suo tentativo di rimorchiarla. Hotel Diodoro, Taormina. Alla riscoperta di François Truffaut. A Taormina la lettura dell'epistolario del regista francese affidata alla voce di Luigi Locascio. Truffaut in queste lettere diceva preferisco raccontarmi con la macchina da presa piuttosto che in un'intervista. E già stiamo facendo un'intervista, quindi è un po' innaturale. Per un regista, quale sei anche tu, oltre ad essere attore, è importante esprimersi con la macchina da presa? È un po' una violenza esprimersi con l'intervista? Ma guarda, diciamo, il film, la macchina da presa è anche un tempo, una distanza per riflettere e per costruire una cosa, ha un tempo, cioè dire che c'è la macchina da presa non è soltanto perché c'è qualcosa in mezzo, ma anche significa mettersi nella posizione di chi vuole rappresentare qualcosa per gli altri, si è posto il problema, ci ha pensato, e anche se poi c'è una quota di caso, di qualcosa che arriva inaspettatamente, però c'è appunto una distanza, un tempo per riflettere prima di mostrare. L'intervista invece è così, è provvisoria, ti arriva una domanda, ci metti del tempo a rispondere, è qualcosa che ha a che fare con un pensiero specificatamente del soggetto che risponde, mentre nel film c'è comunque una trasfigurazione anche rispetto a se stessi, quindi è molto più complicato rispetto a rispondere alle domande, ecco, così, d'amblè. Anche perché lo stesso Truffaut diceva in una delle lettere splendide che hai letto tu che l'autenticità nel cinema passa per la costruzione. È bello poter costruire un mondo con le proprie mani, con la propria macchina da presa. Sì, è una cosa che diceva anche rispetto agli attori. Anche gli attori, diceva, quelli più naturali lo fanno facendo un lungo tragitto che è fatto d'artificio. Me ne sono accorto anch'io, tu dicevi appunto che sono regista di questo unico film che ho fatto, ma... E, scegliendo mia madre come attrice del film, per interpretare la parte di mia madre e in maniera appunto così ingenua pensavo tanto che ci vorrà è mia madre, mentre invece lei è stata brava a mettersi nella condizione dell'attrice che cerca, che prova e attraverso una serie di difficoltà e di iniziali fallimenti poi arriva a una forma che è la costruzione, la ricostruzione del suo essere mia madre. Truffaut ha detto a un certo punto: farò un film che piace alla critica quando avrò dei soldi da buttar via. Tu che hai esordito alla regia, com'è stato il tuo rapporto con la critica, con le critiche che hai letto, con che stato d'animo le hai affrontate? Guarda, io sono stato fortunato perché il film è stato selezionato per Venezia dalla settimana della alla settimana della critica, quindi da dei giornalisti. Le recensioni, soprattutto delle persone di cui ho maggiore stima, sono state tutte molto lusinghiere. Non è che la critica è qualcosa di anonimo, sono delle persone che parlano e che scrivono, di cui volere, desiderare, ascoltare la voce, quindi è chiaro che le persone che mi stavano più a cuore le ho lette, quelle voci scritte in una maniera con più trepidazione. Sono stato anche fortunato del fatto che il film sia piaciuto, quindi è ottimo. C'è da dire che c'è una componente umana, molto umana, troppo umana, che fa sì che dispiace sempre ricevere una critica negativa, soprattutto quando diciamo quando non viene presa sul serio qualcosa, quando c'è quel modo in quattro righe di liquidare qualcosa, quando non si sa esattamente in che cosa consista la difficoltà di fare un film, ecco, o quando si sfiora l'insulto. Perché lì c'è la vigliaccheria da parte di chi, ad esempio, ti incontra e non ti dice in faccia quelle cose perché magari riceverebbe una sfida a duello con le stesse maleducate offese. Quindi in questo senso certe volte ci si rimane male perché ci si sente anche toccati in maniera, cioè proprio sul personale. Pronto a ripetere l'esperienza? No, pronto no, perché si è pronti quando una storia ti ha veramente travolto e io ancora non ce l'ho. Sono pronto al fatto che arrivi qualcosa di nuovo perché mi sono molto divertito e appassionato. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.